Eccomi la fuga del gatto in un bel ritardo, ma oggi era una giornata un po', come dire, frenetica, piena di traffico e grandi difficoltà. E, però meglio tardi che mai, come si dice, no? Della serie di proverbi che mi fanno comodo. Ecco, sono da sola oggi, chissà che forse la mia compara non arrivi a un certo punto, ma per adesso sono in solitaria e puntata di oggi della fuga del gatto su Radio Wombat, ovviamente puntata dedicata all'Armenia, alla musica dell'Armenia e puntata assolutamente non esaustiva, non potrebbe proprio neanche lontanamente ambire ad esserlo, perché la musica armena, lo vedremo, ha radici molto molto in là nel tempo e insomma ce n'è veramente tantissimo da dire e ce ne sarebbe per ore, però io uno non so bene di cosa parlo e quindi insomma a parte delle modeste ricerchine non vi posso veramente essere d'aiuto e in più insomma non ci sarebbe neanche il tempo. Prima di tutto la fuga del gatto è un modo per farvi ascoltare della musica e quindi insomma daremo spazio più che altro alla musica, ben poche parole, ma della musica molto bella. Domenica 14 ottobre, giornata di oggi, e prima di dimenticarmene vi do i contatti del Wombat, i social Wombat cosiddetti, wombat.noblogs.org, il sito da cui probabilmente ci state ascoltando, oppure potreste anche starci ascoltando in AM, in onde mediocri, sulla frequenza 1359, se siete così fortunelli da essere raggiunti dal Wombat segnale. E poi la casella di posta wombat@insiberia.net, e insomma quello è il modo più veloce per contattarci direttamente e farci sapere cosa ne pensate della nostra radio. Dicevamo puntata dedicata all'Armenia e iniziamo subito con uno degli esponenti della musica armena ancora vivente e molto interessanti, allora Tigran Mansurian. Tigran Mansurian è nato a Beirut, cioè una storia piuttosto complessa di spostamenti, cosa che purtroppo per fortuna contraddistingue molto il popolo armeno. Nato a Beirut nel 39 da genitori armeni, però in realtà ha passato la vita a Yerevan, che era la capitale dell'allora Repubblica Sovietica dell'Armenia. Tigran Mansurian ha dedicato moltissimi brani alla cultura armena e anche alla storia armena, tra cui ovviamente non poteva non parlare del genocidio armeno, e quindi iniziamo subito con il suo Kyrie Requiem dedicato proprio alle vittime del genocidio armeno. Thank you. Particolarità della musica armena, non soltanto di Tigran Manzurian, devo dire, e ce ne accorgeremo anche nei prossimi autori che ascolteremo, ma in questo brano il Kyrie di Tigran Manzurian, insomma, si sentiva benissimo. Una particolarità della musica armena è quella di farsi contaminare e contaminare a sua volta la musica tutta, quindi ci sono influenze di un po' tutti i vari paesi dove si è stati e da cui si è tratto qualcosa e a cui si è lasciato qualcosa. Una musica molto meticcia, molto girovaga, potremmo dire così. In questo Kyrie l'avrete notato, insomma, c'era chiaramente la tradizione affondava a piene mani nella tradizione del canto gregoriano. Il Kyrie è un qualcosa che già di per sé è tradizionale per antonomasia, e però la sua esecuzione, la sua composizione in questa forma aveva anche tutt'altre forme, tutt'altre influenze, insomma, era tutt'altro che scolastico e normale, ecco, c'era della cultura araba, della cultura russa e sicuramente, insomma, della cultura armena, ecco. E andando avanti, sempre Tigran Manshurian, che è l'autore di cui vi faccio ascoltare un po' più cose, c'è questo capriccio per violoncello, scusate, mi ero impappinata, capriccio per violoncello solo, che è stato scritto per una violoncellista in particolare, Karina Georgian. E fra l'altro Karina Georgian è una violoncellista famosa per essere colei a cui erano indirizzate, per la quale erano state scritte molte composizioni contemporanee, non solo di Manshurian ma anche di altri autori come Knit e Arvo Part, ma molte altre anche. E quindi direi ascoltiamoci subito anche questa. La durata è un po' più lunga, sono 10 minuti circa, capriccio per violoncello solo. Mm-hmm.

La fuga del gatto e ovviamente Radio Wombat. Ecco, questo era il finale del capriccio per violoncello solo di Tigran Manzurian e sempre all'Armenia continuiamo a dedicare questa puntata, insomma abbiamo ancora qualche altro autore, ne abbiamo altri due da indagare. E il primo di questi due è Avet Terterian. Non so assolutamente come si pronuncia e dove va l'accento, ma d'altra parte, insomma, non me ne vogliate, dovete prendermi così. Amico e collega di Tigran Manzurian, fra l'altro molto amato dallo stesso Shostakovich, ha studiato a Yerevan e vissuto in Armenia, almeno quella che allora era l'Armenia. Conoscitore e uno scopritore di strumenti armeni che infilava nelle sue composizioni. Gli armeni hanno una tradizione musicale lunghissima, si accennava prima. Si dice che abbiano costruito una cosa come centinaia di strumenti, gran parte risalgono al Medioevo, ma anche prima. Però sicuramente il Medioevo era un momento di fioritura, per la musica armena molto, molto grosso e tra l'altro, alcuni di questi strumenti sono poi diventati il corpo centrale della musica araba, come ad esempio l'oud e il qanon. Ci sono altri strumenti che sono stati tramandati fino a noi, la maggior parte purtroppo si è persa o comunque si è liquefatta in altri strumenti, perché magari alcuni strumenti musicali noti derivano poi magari da, o perlomeno hanno avuto delle influenze armene. Appunto, l'oud e il qanon sono di derivazione armena, non, la cosa mi ha abbastanza colpito, non lo sapevo assolutamente. Ma ci sono anche altri strumenti che invece sono arrivati fino a noi, come il dudux, per esempio, che è un legno ed è una sorta di flauto chiamato ad albicocca. E insomma, ce ne sono diversi e piuttosto variegati. Uno di questi, appunto, cioè una buona parte di questi, troviamo in questo primo brano che vi faccio ascoltare. Beh, in realtà no, non il primo, è proprio l'unico che vi faccio ascoltare di Avet Terterian, tratto dalla sinfonia numero 3, è il terzo movimento. Thank you. fare un salto, sulla sedia, lo immaginavo. Sì, beh, non è un caso che Aveted Terterin piacesse molto a Sostakovich. In effetti, boh, avrete sentito, c'era molto della cultura russa, oltre che, come dicevamo prima, gran parte della cultura strumentale e musicale e non solo armena. E allora, arriviamo all'ultimo musicista che vi faccio ascoltare stasera. In realtà, per dare una, beh, era doveroso, diciamo, perché chiaramente non potendo essere questa trasmissione esaustiva, ma neanche appunto vagamente, si tratta di darvi dei piccoli esempi, ecco. E da un lato abbiamo ascoltato Tigran Manzurian e Evet Terterian, che in qualche modo si assomigliano sia nella poetica che anche nelle posizioni. Beh, in realtà, appunto, avevano una visione del mondo abbastanza affine. Invece poi c'è un altro compositore, sempre di origine armena, che è Aram Khachaturian, chissà come l'ho detto, che è un compositore sovietico, a tutti gli effetti, di origine però armena, appunto, ma molto organico al realismo socialista, quindi siamo un po' agli estremi opposti. D'altra parte, la musica armena, per sua natura e per natura anche dello stesso popolo armeno, è molto variegata e non soltanto appunto nella poetica musicale, ma anche proprio geograficamente. C'era chi stava da una parte, chi stava da un'altra, chi si è spostato, chi è rimasto, e insomma, è anche giusto dare conto di tutta questa varietà. Aram Khachaturian, dicevamo, vive lontano dall'Armenia, quindi, cioè, mentre gli altri due che abbiamo sentito fino adesso, a tutti gli effetti, almeno per una buona parte della vita, hanno passato la vita a Yerevan, o comunque in Armenia. Lui invece no, lui sta nella Russia, nell'Unione Sovietica, ed è anche appunto piuttosto organico. Quindi, ovviamente, poetica opposta anche a quella di Sostakovich. Quindi, se prima dicevamo Sostakovich, che stimava moltissimo Aveted Terterian, ecco, immaginerete che qui siamo da un'altra parte. Quindi, ultimo brano di stasera, di questa puntata della Fuga del Gatto, è proprio di Khachaturian, ma te l'ho detto ogni volta in una maniera diversa, voi scegliete quella che vi piace di più, dalla Masquerade Suite, che viene anche chiamata Spartacus Suite numero 4, il Walzer, una composizione piuttosto nota e che tra l'altro ebbe piuttosto successo al momento nell'allora Unione Sovietica. Con questo vi saluto, abbastanza breve, ma spero è interessante. Vi do appuntamento a domenica prossima, sempre intorno alle 6. Spero di essere un po' più puntuale e sempre ovviamente su Radio Wombat. Ciao ciao.